America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Donald Trump says he will take steps to distance himself from the business empire that bears his name. Donald Trump qualche tempo fa diceva che forse non avrebbe rinunciato a fare il suo business. Ebbene, ieri ha gettato la spugna, ha dato l'annuncio che rinuncerà a qualunque incarico all'interno della sua azienda e passerà le consegne ai due figli. Farà una conferenza stampa, ha detto, il 15 per dare i dettagli. Conferme, tra l'altro, non solo di Wilbur Ross, di cui vi avevo già parlato ieri, ma anche di Steve Mnuchin. Sarà il nuovo segretario al tesoro, ha detto, il mio obiettivo sarà di ridurre le tasse come non si era mai visto dai tempi di Reagan. Insomma, Donald Trump avanza nella preparazione della sua amministrazione e devo dire che ha anche un asso nella manica piuttosto interessante. Perché? Beh, perché dopo tutte le polemiche che ci sono state sulla NATO, comincia a prendere corpo l'idea che Trump potrebbe esigere i contributi del 2% rispetto al PIL in spese militari che ciascun paese membro ha accettato di sottoscrivere per redistribuire i costi della NATO, e potrebbe dire che, beh, insomma, chi non paga rischia una penalizzazione nella membership, o addirittura potrebbe esserci una spaccatura dell'alleanza. Ecco, questo per fare che cosa? Per forzare una rottura dei limiti nei rapporti di disavanzo PIL che sono imposti da Bruxelles. Ecco, Trump potrebbe spingere perché siano concesse delle eccezioni. Ecco, questo è uno degli sviluppi più interessanti, perché in questo modo Trump riuscirebbe a fare quello che non è riuscito a fare Obama, convincere cioè la Germania che il tempo dell'austerità e dei rigidi parametri di bilancio è finito e che è meglio pensare all'espansione, alla crescita, piuttosto che a continuare a stringere la cinghia. E questo sviluppo possibile è emerso durante una lunga chiacchierata che ho fatto con Francis Fukuyama, il celebre scienziato politico, ai microfoni di America 24. Ecco, con la vittoria di Donald Trump, lei ha parlato di elezioni spartiacque, ma quale Trump prevarrà secondo lei, quello pragmatico o quello ideologico? Mi sembra difficile inquadrare Trump all'interno di un'ideologia. È aggressivo, ha parlato di protezionismo, di rivedere le alleanze americane. Ha promesso la persecuzione dei suoi oppositori e via dicendo. Ma quale sarà il suo volto? Un paio di giorni fa pensavo prevalesse quello pragmatico, perché ha detto che non avrebbe più perseguito Hillary Clinton, ha aperto all'Obamacare, è stato moderato sulla NATO. Poi invece ha rivendicato la sua vittoria anche nel voto popolare, puntando il dito contro una grossa frode elettorale. Il vecchio Trump che trae conclusioni dal nulla. Detto questo, fino ad ora molte delle sue nomine non sono state così negative come avrebbero potuto essere. Cosa spiega, secondo lei, il voto americano dell'8 novembre? L'11 settembre, l'attacco dell'11 settembre, la globalizzazione oppure proprio questa forza inaspettata di Trump? Non credo si possa imputare tutto all'11 settembre. E Trump rappresenta i sintomi di un malessere, non la causa. La radice risale alla fine della Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti e l'Europa hanno aderito a una visione comune sia politica che economica, basata sul libero mercato e sulla promozione di frontiere relativamente aperte. Questo sistema ha prodotto un benessere incredibile in termini di globalizzazione, ma non una redistribuzione equa di questo benessere. E i nodi ora sono venuti al pettine. Ecco, il rischio di chiusura, devo dire, è molto reale. Potrebbe estendersi anche, secondo lei, all'architettura multilaterale, militare e politica? Quanto è importante mantenere questo grande impianto di sicurezza che gli Stati Uniti hanno messo in piedi? A livello economico, il sistema politico-militare ha funzionato perché gli Stati Uniti erano la potenza egemone, ma lasciavano allo stesso tempo un accesso quasi gratuito a questo sistema. Lo stesso capitava con la NATO, e non c'è dubbio che la questione su come dividersi gli oneri è un problema che non si è posto per almeno 30-40 anni. Gli Stati Uniti hanno accettato di sostenere il costo maggiore perché avevano compreso che non si poteva chiedere nulla di più agli alleati. E qui si pone la vera domanda. quando Trump proverà a rinegoziare questi accordi e si renderà conto di non poter raggiungere i suoi obiettivi, quale sarà la sua scelta? Abbandonare questo sistema o continuare a fare quello che in fondo hanno fatto anche tutti gli altri presidenti americani? Ecco, come sa, c'è un impegno a contribuire alla NATO con un 2% del PIL in spese militari, e questa non era un'idea di Trump, anche se poi l'ha venduta come tale, ma è stata ratificata agli incontri NATO, al vertice NATO del Galles. Ecco, l'Italia però, per esempio, per via delle rigidità di bilancio europee, è molto al di sotto della soglia del 2% in termini di contributi. Finora gli Stati Uniti hanno chiuso un occhio, hanno detto, beh, insomma, avrete tempo per raggiungere questa soglia. Crede che partendo dalla difesa e dalla NATO, Trump possa scardinare le rigidità fiscali europee chiedendo che si paghi il dovuto e che la si smetta di badare a questi limiti di bilancio? Sì, e ad esempio se l'Europa cominciasse ad investire in modo consistente sulle infrastrutture militari, questo avrà una ricaduta molto positiva anche sull'economia americana. È un processo possibile. Questo potrebbe davvero cambiare i toni della discussione anche in Germania. Certo, si tratterebbe di uno scenario ottimista, simile a quello che riguarda le infrastrutture americane. Ma Trump potrebbe effettivamente provare a forzare le rigidità europee partendo dalla difesa, dalla NATO. Si potrebbe chiedere all'Europa di escludere certe voci dai vincoli di bilancio. Non sarebbe una cattiva idea. Ma per ora sappiamo poco, dobbiamo solo aspettare. Per il resto, alcune cose in ambito NATO si possono rinegoziare. Ma non avrei alcuna intenzione di rinegoziare le nostre relazioni con i paesi baltici o con la Polonia. Ecco, in Italia si vota il 4 dicembre e il terzo voto importante dopo quello che abbiamo visto, Brexit, dopo il voto in America per Trump, e adesso c'è un voto per la riforma della Costituzione e c'è naturalmente molta attesa. Qual è la sua posizione? A livello puramente tecnico sono completamente a favore. È un passo in avanti contro la paralisi, quella che noi chiamiamo la vetocrazia. In Italia, come in America, avete un Senato che blocca e un sistema elettorale che promuove la frammentazione dei partiti politici. Per cui non si tratta solo di questo referendum. Sono molti i cambiamenti da attuare per rimuovere questi ostacoli e per consentire di semplificare il processo che porta a prendere delle decisioni. In ogni caso, credo che Renzi abbia avuto una buona idea. L'Italia ha davvero bisogno di creare un sistema politico che sia in grado di prendere più decisioni. Sarei felice di liberarmi anche del nostro Senato, se potessi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi è più tempo difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non sappiamo esattamente dove andremo, insomma, Fukuyama ci ha dato delle idee, ha cercato anche un taglio ottimistico, positivo nelle cose che potrebbe fare Donald Trump. Però dove andiamo ancora non lo sappiamo, e dunque mi sembra appropriatissima di Marvin Gaye. Where are we going? Dove stiamo andando? They are sidewalk sleepers, turn about day by day. The work gets done day by day. Another war goes on. Tell me where I'm going. Oh, oh, what's the future? Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!